America 24 di Mario Platero. Buongiorno, benvenuti all'America 24 da New York. Mario Platero, Countdown 2012, con un percorso a ritroso sugli episodi più importanti che, secondo me, sul piano storico hanno segnato il 2011. E in questo caso voglio parlarvi di Medio Oriente, di terrorismo, perché questo 2011 ha segnato sicuramente una svolta chiave sotto molti punti di vista: terrorismo, mondo arabo, mondo islamico, a partire da questo annuncio del presidente Barack Obama. Tonight I can report to the American people and to the world that the United States has conducted an operation that killed Osama bin Laden, the leader of Al-Qaeda. Era la notte fra il primo e il 2 maggio, il presidente Barack Obama interrompe trasmissioni, parla a rete unificate e annuncia che Osama bin Laden è stato ucciso. Devo dire, ricordo quella sera un momento di grande emozione, soprattutto una notizia che andava a incastrarsi in un contesto davvero in straordinaria evoluzione in Medio Oriente, per esempio le rivoluzioni arabe, per esempio i palestinesi che volevano rivendicare unilateralmente il loro stato, per esempio l'Iran. Ho con me in linea per parlare di questo Maurizio Molinari, corrispondente della Stampa. Buongiorno Maurizio. Buongiorno Mario. Beh, ricorderai quella notte straordinaria in cui ci hanno chiamato dalla Casa Bianca per dire state attenti, il presidente farà un annuncio importantissimo. È raro che succeda in mezzo alla notte. Cosa ricordi di quel momento? Sì, la Casa Bianca disse sarà un annuncio sulla sicurezza nazionale, poteva essere un annuncio negativo, uno positivo. I portavoci si premonivano di precisare che non era negativo, cioè quindi non riguardava una minaccia collettiva per gli Stati Uniti, e a quel punto quindi fu chiaro che, essendo un messaggio a sorpresa di carattere positivo sulla guerra al terrorismo, premiava gli sforzi dell'amministrazione Obama, ma anche in precedenza di quelli dell'amministrazione Bush, di vendicare le vittime dell'11 settembre, eliminando il mandante. È stato un momento che ha segnato l'anno, come giustamente hai ricordato, perché ha segnato la sconfitta anche simbolica del movimento della Jihad, d'altra parte incalzato anche dalle rivolte arabe che hanno visto migliaia di persone in piazza non per promuovere la violenza ma per aspirare alla libertà. Da Abu Dhabi a piazza Tahrir sono i jihadisti ad aver perso nel 2001. Ecco, i jihadisti hanno perso, ha vinto una politica di Obama. Obama ha deciso di colpire con i droni, non più boots on the field, non più soldati sul campo, ma soprattutto queste missioni di droni. Anche una politica estera improntata più al dialogo, al multilateralismo. Sei d'accordo che dal punto di vista dell'impostazione ha cambiato molto rispetto a Bush? Obama ha fatto dei droni l'arma preferita per incalzare i terroristi. Questo perché da un lato consente di evitare il più possibile vittime civili, dal secondo trasferisce il conflitto dalla dimensione di guerra aperta a quella di guerra segreta, di intelligence, che rende più difficile per i terroristi proteggersi. I risultati di Abu Dhabi, ma anche quello pochi mesi dopo ottenuto con l'eliminazione in Yemen dello sceicco al-Awlaki, che era stato il mandante di alcune stragi riuscite e fallite sul territorio degli Stati Uniti, premia sicuramente l'approccio di Obama, che si affianca, come giustamente tu ricordavi, anche a una presentazione delle proprie politiche in maniera più dialogante con il mondo arabo e il mondo musulmano. E in questo Obama ha visto un risultato positivo nel discorso di Al-Zahar nel 2009 al mondo arabo dall'Egitto, premiato dalla stagione delle rivolte arabe. Ecco, le rivolte arabe che partono in Tunisia, dopodiché procedono in Egitto e poi si allargano alla Libia, questa primavera araba che ha fatto sognare molti, sembrava una rivolta costruita su Twitter. Ci sono stati dei momenti però anche di preoccupazione, l'islamismo strisciante, ci sono delle elezioni. Ecco, qual è la tua valutazione? Ma non c'è dubbio che il dato di fondo è che le rivolte iniziate in Tunisia, continuate poi in Egitto, in Yemen, in Libia e quindi in Siria, testimoniano la volontà di masse di giovani, di donne, di uomini arabi di battersi per valori di libertà. Questo è un grande dato nuovo che un anno fa neanche immaginavamo possibile. C'era tutta la discussione su perché lo spirito delle riforme non si insediava nel mondo arabo, e gli arabi ci hanno dimostrato che amano la libertà quanto noi e sono pronti a battersi per i diritti esattamente quanto noi. Certo, è un giudizio in chiaroscuro, perché poi se andiamo a vedere chi si afferma grazie a queste rivolte sul terreno, abbiamo visto il risultato delle elezioni in Tunisia, il risultato delle prime elezioni in Egitto e anche quanto sta avvenendo in Libia, Tutto ciò premia partiti che si richiamano alla Sharia. L'interrogativo politico col quale ci affacciamo nel 2012, se queste forze islamiche, frutto della sconfitta di autocrati e despoti, sapranno essere portavoce di istanze riformiste sul piano dei diritti, ma anche dell'economia, e non di una versione oscurantista della Sharia e la legge islamica. Dalle immagini che molto spesso abbiamo viste, io sono un po' preoccupato, mi viene in mente il 20 ottobre, quando fu ucciso Gheddafi in circostanze relativamente misteriose da una parte, crudeli dall'altra. Ecco, cosa ti suggerisce quell'episodio, l'uccisione a sangue freddo di Gheddafi? È stata una vendetta feroce che testimonia come il popolo libico è fra i più brutali nei suoi conflitti interni. Noi stessi italiani per molti anni in quel paese lo abbiamo provato sulla pelle dei nostri militari e dei nostri cittadini. E solleva un interrogativo su quello che può avvenire adesso in Siria. Siria che diventa una pedina chiave perché è il punto di passaggio per i fondi iraniani verso il Libano, verso Hezbollah, è veramente il punto forse più delicato e più importante. La Siria resiste, resisterà a lungo o no? Secondo me alla fine la storia ci dice che questi dittatori cadono, cadrà anche Assad. Anch'io penso questo, però dipende molto dallo schieramento dell'esercito siriano, che è composto in gran parte di sunniti, quindi un'etnia diversa da quella dell'alawita Assad, ma che gli è fedele per difesa sostanzialmente dell'anziano regime. Fino a quando terrà il patto fra i generali e Assad riuscirà a sopravvivere. In questo contesto c'è una pedina fondamentale, il processo di pace in Medio Oriente, Israele e Palestina. Ecco, cosa significa tutto questo per il dialogo fra Israele e Palestina? C'è una minaccia alla sicurezza di Israele da questi fermenti nel mondo arabo? Ma io credo che l'impasse dipenda dalla decisione dell'autorità nazionale palestinese di chiedere il riconoscimento unilaterale all'ONU in aperta rottura degli accordi di Oslo del 1993. È stata una scelta politicamente rafforzato all'interno Abu Mazen, ma da un punto di vista del negoziato lo ha paralizzato. Proprio perché l'errore lo ha commesso Abu Mazen, sta ai leader israeliani la responsabilità di rilanciare il negoziato con iniziative e innovazioni da un punto di vista negoziale ma anche politico che fino a questo momento non abbiamo visto. E in tutto questo però l'Iran per ora non è stato toccato, l'Iran prosegue nella sua corsa verso il nucleare. Qualcuno dice che prima o poi dovrà subire un attacco per questa sua intransigenza. La domanda è: arriverà prima la primavera araba in Iran, magari attraverso la Siria, o un attacco dell'Occidente? Io credo che il 2012 ci darà questa risposta, perché se dovesse cadere Assad, la rivolta araba busserebbe alle porte dell'Iran. D'altra parte la corsa degli Ayatollah all'arma atomica, attestata ormai dall'Agenzia Atomica delle Nazioni Unite, pone l'Occidente, a cominciare dagli Stati Uniti, nella necessità di prendere delle chiare contromisure. E se Khamenei riuscirà però a salvare il programma nucleare e a evitare il contagio delle rivolte arabe, allora la scelta sarà rinviata al 2013, quando gli iraniani torneranno ancora a votare per il loro presidente. Grazie Maurizio, intanto buon anno al 2012. Buon anno Mario, appuntamento al 2012. Ci sarebbero mille altri approfondimenti, idee da questa costa atlantica che vive sì tempi difficili, ma resta pur sempre la nuova frontiera. Continuerete a trovarli su america24.com, il sito che vi porta sulla sponda americana. Seguitemi su Twitter, @MarioPlatero, scriveteci su Facebook. Ed eccoci alla canzone del giorno, sempre Countdown, numero 4, Katy Perry, Last Friday Night. Da New York è tutto, Mario Platero vi saluta e vi dà appuntamento a domani. Goodbye and get going! America 24.